sole accende l'ombra, l'uragano è già passato, ritorno al mio paese solo a soffrire, non vedo la mia gente, le strade sono deserte, mi guardo intorno, sento la vita che se ne va. Le code di una casa.